Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E si torna in studio Radio Città Fujiko. Dopo il GR di Radio Popolare si inizia un Last Minute che ci porta in scena da oggi fino a domenica, quindi appuntamento esteso ma allo stesso modo con due personaggi di spettacolo, di intrattenimento di grande qualità, di un impegno anche di comunicazione molto molto incisivo e importante. Amici di Radio Città Fujiko, Nicola Bonazzi, che sentiremo oggi, e venerdì invece con Andrea Santonastaso, rispettivamente regista e protagonista del lavoro Da grande voglio fare l'aggettivo. Eh sì, è un titolo curioso, ma è un titolo che dà anche adito a diversi interrogativi che portano riflessione in dialogo tra protagonisti e pubblico. Comincia oggi lo spettacolo che ho appena annunciato, con Andrea Santonastaso nel palcoscenico di TC Teatro con la curatela della compagnia Teatro dell'Argine e la regia di Nicola Bonazzi, che ieri sono riuscito a intercettare per una conversazione così di presentazione in anticipo immediato, quindi nel last minute, per quello che sarà questa sera fino a sabato 16 dicembre alle ore 21 e domenica 17 dicembre alle ore 16:30. Sentiamo appunto allora di che si tratta, in quanto già abbiamo conosciuto sia Nicola che Andrea con Mi chiamo Andrea e faccio fumetti, in seguito con lo spettacolo dedicato a Pertini. Oggi troviamo l'esordio Da grande voglio fare l'aggettivo. Mercoledì 13 a sabato 16 dicembre fino anche alla domenica, quindi un appuntamento esteso per quanto riguarda lo spettacolo Da grande voglio fare l'aggettivo. Un titolo molto particolare, la copiata alla regia e sul palcoscenico è composta da Nicola Bonazzi e Andrea Santonastaso. Una copiata ormai che, come dire, Vialli Mancini o Michael Jordan e Scottie Pippen. Nicola è qua con noi per dare qualche anticipazione su questo parquet a teatro che è veramente un parterre del roi. Buongiorno Nicola. Buongiorno, scusa Leo, perché mi ha fatto molto piacere e mi ha molto divertito questo paragone che hai appena fatto, quindi... Beh, però è anche... Però sì, è un'attinenza. Siamo una coppia collaudata, devo dire la verità, cioè nel senso che comunque è il terzo spettacolo che facciamo insieme, e poi al di là di tutto è la terza volta, perché ci conosciamo anche da molto molto tempo, e soprattutto noto il sodalizio, comincia sui campi da calcio, hai visto? quindi e arriviamo sul palcoscenico, quindi con questo titolo molto particolare. Non vogliamo particolari anticipazioni, ma insomma, se possiamo parlare anche della genesi di questi contenuti, come sono arrivati poi a scrittura per il teatro? La genesi è stata complessa, perché volevamo appunto fare un terzo puntamento, diciamo, dopo i due precedenti legati a Andrea Pazienza e a Pertini, a Sandro Pertini, dove io insomma in realtà ero solo in veste di regista, perché il testo era affidato a Cristian Poli, e quindi l'idea era di aggiungere una terza biografia, poi però non eravamo convinti, nel senso che ci avrebbe fatto piacere anche cambiare un po' registro, cambiare tematica. La biografia è sempre un po', come dire, ardua da maneggiare, perché rischia di essere anche didascalica. Non riuscivamo a trovare nulla di troppo suggestivo per noi, anche in qualche modo. Abbiamo girato intorno all'argomento Fellini, poi però trattare Fellini insomma è come trattare un universo intero, quindi diventava davvero difficile, e attraverso tutta una serie di tappe successive, diciamo così, siamo arrivati a individuare la biografia giusta, che in realtà è quella dell'attore sul palcoscenico, in parte, naturalmente non è proprio così, però Andrea ha una storia bella, soprattutto una storia familiare bella, perché è figlio di, e nipote insomma di attori noti molto negli anni 70, facevano cabaret, Mario e Pippo Santonastaso, e Pippo poi in particolare, cioè suo papà, ha fatto anche molti film da caratterista ed è ancora attivo, e sempre però con questo universo felliniano e la figura di Fellini sullo sfondo. Quindi abbiamo mescolato un po' le carte e alla fine siamo arrivati a una specie di autofiction che io chiamo alter fiction, perché l'ho scritta io su di lui, e così un po' shakerando le sue esperienze formative, come si arriva a formalizzare una sorta di vocazione da attore, e la si arriva a formalizzare quasi in maniera inconsapevole proprio perché si arriva da una famiglia che ha questo DNA, ecco. Specifica per questo lavoro, oltre che per l'estensione, anche per la qualità, l'importanza, il motivo di comunicazione, la domanda che viene posta poi al pubblico, le diverse sfaccettature di contenuto. Tre spettacoli che poi andranno con Da Grande Voglio Fare l'Aggettivo, un terzo appuntamento. Dopo il primo Mi Chiamo Andrea e Faccio Fumetti, Andrea Pazienza, Andrea Sant'Onastaso, ricordando la sua grande passione e anche professionalità. Lui disegnatore sul palcoscenico, più volte l'abbiamo visto impegnato in questa pratica, e troviamo un talento aggiunto veramente molto particolare. Nicola Bonazzi alla regia, nella direzione artistica, co-direttore artistico della compagnia Teatro dell'Argine, e l'accoppiata che ho paragonato a grandi campioni dello sport, in questo caso grandi campioni di un intrattenimento intelligente, di un intrattenimento che porta a un dialogo tra pubblico, spettacolo e protagonisti quanto mai importante. Pensate anche alla domanda che spesso ci poniamo, a volte penso volevo fare il cestista e la strada è cambiata completamente, ma allo stesso modo certi aspetti rimangono e possono essere traslati. Non a caso è nato il Moved Groove all'interno dell'attività che si va poi a procedere nel percorso di vita. Quindi per Da Grande Voglio Fare l'Aggettivo, come ho detto, tre spettacoli, e si può parlare di trilogia? Ma forse in parte sì, sicuramente i due primi capitoli erano molto legati, ma intanto perché c'era l'idea della biografia, ma anche perché poi il secondo dei tre, cioè Pertini, è anche molto legato a Pazienza, perché poi Pazienza disegnava Pertini e ha realizzato molte tavole e molti fumetti, insomma, con Pertini protagonista. In questo caso diciamo siamo un po' più lontani da quelle due prime tappe, ma in qualche modo ci ricolleghiamo a quelle, perché per l'appunto c'è una sorta di percorso, anche in questo caso ripeto, una sorta di percorso biografico, e ci ricolleghiamo soprattutto al primo di questi tre spettacoli, cioè Pazienza, perché quello spettacolo che si intitolava Mi Chiamo Andrea Faccio Fumetti, non a caso, nel senso che Andrea era certo Andrea Pazienza, ma era anche Andrea Sant'Onastaso, e come dire, il suo scacco da disegnatore, perché Andrea è anche, oltre a essere un attore, un bravissimo disegnatore, e in quel caso Andrea raccontava la sua esperienza di disegnatore, ma soprattutto il suo scacco di fronte al genio di Andrea Pazienza, che gli aveva fatto smettere di disegnare. In qualche modo, ecco, qua ci ricolleghiamo a quella prima tappa, nel senso che in maniera molto marginale Andrea disegna sul palco, perché insomma è anche bello vederlo disegnare, e comunque anche qua, diciamo sempre marginalmente, Andrea racconta che arriva al lavoro di attore secondariamente rispetto alla sua idea iniziale, invece di fare, al suo sogno iniziale di fare il disegnatore, cioè ci si arriva un po' appunto per una sorta di fallimenti, però scoprendo che questo lavoro che si fa adesso è invece il lavoro della vita, è il lavoro che piace, ecco, insomma. Quindi diciamo che è una specie di parabola che si chiude in rapporto a quella prima tappa che era Mi Chiamo Andrea Faccio Fumetti. Sì, e involontariamente mi ha anche rubato l'idea, perché io volevo fare il cestista e ora lavoro in radio, quindi ma tante secondo me sono i what if, no? Il cosa sarebbe successo se, e trovarlo con il vostro motivo di ispirazione, il vostro talento è qualcosa che porta anche il pubblico a farsi questa domanda, perché secondo me un po' tutti abbiamo, può essere capitato un qualcosa che ha cambiato la strada ma che rimane, non fa rimpiangere, forse sicuramente ha motivo di conversazione con se stessi anche con gli altri, e questo è il teatro. Da grande voglio fare l'aggettivo con Andrea Santo Anastaso, la regia è di Nicola Bonazzi, Teatro dell'Argine, Itici Teatro di San Lazzaro. È un aggettivo accrescitivo, è un tante sono le accezioni dell'aggettivo, Nicola? No, ma infatti lì poi appunto non posso lo scopriremo molto, ma poi... ok. E poi lo si dice durante lo spettacolo che cos'è quella strana frase, insomma. Ok, io ti ringrazio tantissimo per questa piacevole conversazione e ci diamo appuntamento a teatro. Grazie Nicole, grazie, buona giornata. Grazie mille, grazie a tutti, buona giornata. Cadê não tem mais? Cadê o tal gingado que mexe com a gente? Coitado do meu samba mudou de repente, influência do jazz. Quase que morreu. Acaba morrendo, está quase morrendo, não percebeu que o samba balança de um lado pro outro. O jazz é diferente, pra frente, pra trás. E o samba meio morto ficou meio torto, influência do jazz. No ar pro cubano vai, complicando vai, pelo cano vai. Venerdì avremo la seconda parte di presentazione con Andrea. Io ringrazio tantissimo Nicola Bonazzi per questa partenza. A proposito, da grande voglio fare l'aggettivo. E troviamo il voltiamo pagina a breve per quanto riguarda co-conduzione, comunicazione e il quiz. I quiz per la doppia presentazione 333-180-9494. A tra poco, quindi un buon ascolto, vi aspetto con il voltiamo pagina, tra poco.